e lui glielo fa, si faceva anche i soldi, si faceva, a ditemi lo faceva, no, a privati così. Ma lui per chi lavorava? Aveva un tipo un negozio di elettronica informatica suo o lavorava presso qualcuno? Oh no, a conto suo, da casa sua lavorava. Sì, bien. E di questi tempi bisogna fare queste cose e inventarsi lavoro, se no davvero non... Ma è tutto in crisi, Marco, è tutto in crisi. Tu pensa che non, che qua non passa neanche la fibra vera. La fibra vera qua non passa, non te la attaccano. Se no io avevo voluto la fibra proprio, non quella che ho, ma quella vera proprio. Lui in via Sorso aveva la fibra vera, aveva. E infatti non ha fatto nessun contratto, perché qua fibra non ne passa e sta usufruendo della mia linea praticamente. Sì, è vero, in certe zone praticamente in casa ti entra il doppino di rame, non è una fibra full, qua invece sono riusciti a metterla full, cioè non c'era problema, ho detto ma è una fibra vera fino al modem, fino al computer oppure arriva il doppino di rame, no dice fibra proprio. E poi mia, appena te la installano, tu vai a fare i test di velocità e leggi quasi un gigabit per secondo, no? Tipo 900, 950, 980, il giorno che te li installano. Poi, come passano i giorni, se tu vuoi fare adesso lo speed test, vedi 300 megabit per secondo, dipende dai giorni, dall'ora anche. Oh, 300 megabit per secondo sono lo stesso un'enormità, perché tanto poi apri i siti, il sito non è che te lo apre a 300 megabit al secondo, il sito è assaltato di gente, assediato di persone, se la prende comoda, YouTube, tutto, insomma. Sì, può aiutare in certi casi, però alla fine è il server che ti dà le informazioni, il sito a cui ti colleghi e poi che ti dà la velocità, se ne ha. Sì, i server sono lenti per natura. Oh yeah, va bene, il gatto del vicino mi si è affacciato. Si chiama Mickey, ma lo sai quanto è bello? L'altro giorno l'ho chiamato e gli ho detto, Mickey, lui si è girato, no? E gli ho fatto ciao e lui miau, mi ha salutato. E dov'è che si affaccia? Ma lo vedi dalla finestra? Sì, se è di fronte a me la finestra sua e io lo vedo a lui. Dico froscione, paraculo. Ah, vabbè, il gatto suo è. Sì, del vicino è bianco e nero, ma santo è bello. E io sarà come Flo, tipo Flo, dai, così. Che altro, boh, mamma mia, lunga la serata, domani domenica pure, stanotte il cambio dell'ora, quindi domani alle 6:30 sarà buio, cavolo. Aspetta che mi sta chiamando mia moglie, Marco. Pronto? Ma tu mi sta tornando indietro, sono rimasta fino adesso in piazza dell'università, perché l'hanno rinviata. Ok, vabbè. Ma poi te lo dico a casa il mio titolo, dai, ciao, sono già in piazza Colonna Mariana. Va bene signora, l'aspetto con... Buonanotte. Ti faccio salutare da una persona, se la riconosco. Adriano? No, Marco è... Marcolino, non mi salutare. Ah, non ti può salutare, devo premere la portante e non lo senti. Bambo, ti dai. Ciao. Ciao. Ciao. No, vabbè, giustamente c'è la portante premuta. No, ma io ho provato a riprendere, ma avevi già ripreso tu. Infatti, c'è la portante premuta, no. lo stavo ricevendo dal computer la telefonata a Fanguala. Ma mi sono confuso nel confronto. La vecchiaia è carogna. Ma vuoi finire? Mamma mia, mamma mia. Mimi, chi è entrato? Luca Puggioni. Vuoi finire le robe, coglioni, eh? Vuoi finire? Marco, cosa dici? Lo facciamo dormire stanotte, se no alle due lo telefono. Scusa. Piombiamo i telefonati all'una, alle due, alle tre. Allora, sempre cosa mi dice? Perché un cuocuomane questo Luca Puggioni? Adesso ho detto nome e cognome, così impari. Cuocuomane, va. Ma propagazione c'è? Sì, già c'è. C'era un casino poco fa, più su, di qua. C'è roba di sbratta dall'11. Ah, io c'ho lo squelce, non c'entra nessuno, c'entra solo a voi. Che c'è cuocuomane, sì? Cosa ti ho detto? L'altro giorno, dall'11, quell'americano che arrivava a 9 qui mi stava splatterando, perché sono 10 kg no, di differenza, ma stava splatterando forte me, dagli Stati Uniti, immagino. E roba di kilowatt ci aveva. Ah, addirittura c'è il gatto, se lo vuoi vedere, su TikTok. Il gatto del mio vicino, che... Ehi, ascolta, ma tu prima hai detto che hai installato TikTok sul computer, sul PC, ma non l'hai installato, cosa va, tramite browser? No, l'ho installato. Tu nello store vai e cerchi TikTok e te lo installi. Ah, hanno fatto l'applicazione per il Play Store, non Play Store, per il Windows Store, come si chiama? È quello lì, dai. Vai lì e te lo scarichi. E c'è questo Stefano Bonetti, si chiama, che fa la live, dalle 20 c'è la live ogni sera. Un IZ5, un radioamatore, sta anche in 27, a 555 è quello. E, insomma, fa la live, ti fa vedere gli ex e tutto quanto. E, è già carino ogni tanto, ma alla fine a fare da spettatore solo, insomma, bisognerebbe contribuire, però non è più voglia, mi sa che la voglia è passata anche a te, di quella roba lì. No, puoi interagire, puoi parlare, nella live parli, non parli via radio, no, nella live, e ti rispondono, cavolo. L'altro giorno li ho salutati, ciao Natalino, capito? No, ma io dicevo di patente, stazione, tutto quello, e interagire, intendevo quello. E io parlo in 27 a 555, non me li faccio di ex, sono sempre lì. Abusivo. Sì, che abusivo. Infatti di Polo, perché me lo voglio fare? Perché io vado lì, così almeno se qualcuno parla qua, io lo sento. E c'ho la monitor, capito? L'ho già sbadiglio, si è visto anche l'esofago. Vai Luca. Sono un po' dopo uscita. Questa sera faccio karaoke, questo circo di un amico. Perché questo mio amico lì fa karaoke, si è ritirato alle 8 e dice che è fuso, non ce la fa oggi. Dimmi il culo di Nacca, cazzo me la fa. Che la fa, non lo fa. Tanto è dalle 8 a mezzanotte. Caraocchio. Giovanni, lui, di Caridina e Mudu. Natalia. Tempi disgraziati sono. Tempi disgraziati. Non dirlo a me. Cazzo, che io sto aspettando di fare una visita e non la posso fare perché non c'è disponibilità. Ho fatto l'angio tac, ho fatto fatto per la circolazione del sangue. Però adesso devo fare questa visita con un chirurgo vascolare e non riesco a farla. Devo telefonare ogni giorno per vedere se c'è un posto. Va in Oravona. E mi scade fra un po', perché dura 10 giorni solo l'impegnativa, e me la devo far rifare se scade. Perché quei chirurghi che ho contattato hanno detto che loro non possono fare niente, che ci vuole un chirurgo vascolare, perché dice che non dipende dalla gamba, ma bensì da quell'aneurisma che ho sul renale, capito? Sì, comunque per quelle cose delicate ci vuole uno specialista proprio che chiede tutto quello vascolare. No, che nome per un controllo avanti chi è? È un posto, siamo allo sfascio con la sanità. E lo devo fare lì dove ci sono quelle chirurghe amiche di mia moglie. Perché se lo faccio lì almeno loro danno un'occhiata alla situazione, hai capito? Che se mi possono operare, mi faccio operare, non ne posso più di stare così. L'altro giorno, oltre il dolore alla gamba, avevo anche alla stessa gamba una sorta che avevo fatto qua. Non riuscivo a camminare. Marco, ti giuro, gatto, non lo auguro al peggior nemico. Oh, c'era qualcuno che voleva un controllo. Chi è avanti? Siamo un po' basso, siamo dal QRM, da messo i segnali 5 radio 2. Roberto, così. Sì. Stai loculendo? Sì, oh, Marco, lo senti tu? Sì, segnale 6 e mezzo. Segnale 6 e mezzo, radio 3, da. Non molto forte, però si sente. E deve essere l'amico di Tonino, io non lo sento perché c'ho lo squelch, capito? E c'ha un'antenna, un arringo, e non si viene a niente, si antenne, tutti di fittusi, mamma mia, perché non si... cazzo, ci vuole un dipolo di cibi forti. No, è l'arringo, è un'antenna di mano. Capito Natali, antenna veicolare. Ah, un'antenna è ancora peggio. Sì, comunque quella ringo della LEM, io dopo un anno l'ho tolta per disperazione perché è stazionario altalenanti, poi si era mollato proprio dove c'è l'isolatore, stava uscendo lo stilo, pochi millimetri, e lo stilo sarebbe stato tenuto solo dalla molla, che poi non l'avrebbe tenuto, sarebbe caduto tutto. E ho fatto bene a mettere questa, non gli avrei dato 2 giorni di durata, lo sai, ho detto se dura 2 anni di lusso, 2-3 anni, c'è dal 2014, ma un'antenna di Chichia proprio, ma meno male, da. Se l'installazione è fatta bene riesce a sopravvivere, poi dipende che tornado viene. Se viene il vento del 2008, dubito che rimanga qua l'antenna. La troveranno la Ginara, minimo. Vai Luca. Un po' basso, poi vabbè c'è propagazione oggi. Adesso mi assento, vado a farmi la doccia, arrivo subito. Comunque la Talina è mala, sono da Bacchino. Non rispondi? Aspetta, sto parlando con mio cane. Credevo che si fosse assentato, che abbia detto un attimino, roba del genere. Vabbè, dai. Buona doccia, Luca. Tu te lo ricordi il tifone del 2008, sì? E l'antenna tua aveva resistito. Ho capito, Marco, scusa. Tu te lo ricordi il tifone del 2008, quella tromba d'aria terribile che c'era stata? L'antenna tua aveva resistito. Sì. Ho voglia. Ma quello era allucinante, cioè proprio allucinante, mai visto una cosa del genere. Che aveva scoperchiato a mezzo a Sassari e anche le borgate. Certo che mi ricordo, a Puglia. Casino. No, la mia antenna, diciamo, non era piazzata male, perché le staffe sono insomma, belle massicce, ecco, da. Poi il palo, quello di sotto era un palo di coso, di segnaletica, mi pare, un palo di campo, se non mi ricordo. di due campi a calcio. Adesso li ho cambiati tutti e due, ho messo tutti e due zingati, quello va a destra è zingato, così non si zingheggia. Perché a Tamaccia la mia antenna, l'ingresso del palo lì, che è a Tamaccia, spaccata proprio. Infatti Fabrizio gli ha fatto tutto il pezzo nuovo. Ormai siamo riusciti a trovare i pezzi dell'antenna. Sì, cosa le aveva? Ricostruiti al tornio certi pezzi, no? Sì, solo lui poteva farla. Sì, ha le mani d'oro, l'ho sempre detto. Di tutto sa fare, cosa non sa fare? Vediamo se è rientrato Natalino, magari è andato a aprire la porta. E comunque, Luca, buona doccia, ce la devi fare. Io adesso vado a bere, poi se rientra Natalino bene, se no magari mi accendo la TV o mi faccio il caffè. Marcolino, sono qui. Saluti da Concerto. Sto facendo Natalino, ma vuole il tabacchino, Lascia stare, che mamma di due figli quella. Esamizia così, a ti va. No, siamo andati lì a fare una commissione con Michela. Glielo ho detto, ma c'è la figlia adottiva di Concetta, sì, gliel'ho detto ieri. Quella lì io la conosco da bambina, può essere mia figlia. Se ti avvicini poco poco ti taglio l'uccella, hai capito? Ah, oh, ci mancherebbe. Io diciamo un tipo, questo tutto fatto alla mamma, fra te, a Sileni lo zebedo. Gli ti deve mai nello zebedo lì, insomma, la mia piomboga. Io lo conosco poi questo tipo. Non è capitato lì al corso, mamma mia, non ti mollava più, Inizia a parlare, non ti molla più. Ma cazzo fa la gente, bro? Sì, no, Concetta, che ti picchia? Mi sentita là. Oh Luca, ti sto dicendo, sì, il vicino no, è passato qua, era vicino al tabacchino, se l'è avvicinato uno e ha detto se ne voleva di mamma, e qua, invece di essere lui a chiedere a Nigiti che te la offriano. Se ieri notte quando stavo rientrando a casa, non le 2:30 così, passo al corso, c'era uno di colore che mi ha fatto di mano, se a fermarmi, mi capito, e se era lì per spacciare bamba. Beh, un giro in occhi, mamma mia, la di fase ne ha carrettata guai. Una volta l'ho passata qui, tipo come l'avevano fatta al monte lì, che era tutto pieno di carabinieri, anche quelli col basco rosso c'erano. L'hanno fatta qua, lo sa la gente che hanno arrestato. Io me ne sono accorto perché sono uscito di mattina presto, no? Perché vanno di mattina presto, vanno a fare queste cose qui. Già veniva le bocche di enti. Immagino. Cosa ci vuoi fare, va? Dai, arrivo subito alla Fabia. Alla Fabia la luce che penso alle 7 faccio questo karaoke, mi dico qua. Ehi, cappa. Va bene, adesso vado e mi faccio il caffè, alla faccia a voi. Io mi sa che faccio altrettanto. C'ho anche le corde vocali intrecciate. Tutte ingrugliolate ce le hai. Allora sai, ce la ricordi Gloria, Marco? Gloria? E chi è Gloria? Una CB che entrava. Una volta gli ho detto Gloria, gli ho fatto, ed ingrugliolato di vecchi anni, mi ha detto in sassarese. No, non me la ricordo per niente. Sì, troppa gente, c'è talmente tanta gente che i pomponi io già li conosce tutti, soprattutto le donzelle le conosceva tutte. Ho ripetuto quando dice ti ricordi questa, ti ricordi questa, ho detto boh, ma non è mai sentita, ma non ne ho idea, oppure l'ho dimenticato. Dimmi tu. Vabbè, comunque mi aveva detto così in dialetto, ingrugliolato di vecchiani, perché io la stavo perculando, no? Gli ho detto Gloria, e lì ingrugliolato di vecchiani. Va bene, dai, fatti questo caffè, dai. Aiutare, che così dopo riprendiamo. Giulio, sei tu? Sì. Davvero sei tu? Dalla portante, dal fischio? Sì, sono io. Sì, stavamo parlando da una parina del più del meno, del per, del diviso, di pesca, di... così, di varie amenità varie, dai, adesso è andato a farci il caffè e altrettanto faccio io, dai, che ne ho una voglia. E poi, se Dio vuole, c'era anche Luca, mi Luca del Monte. Se Dio vuole, rientriamo dopo, se Dio vuole, tocchiamo per. Bene, ok, mi sono svegliato adesso, ho fatto la pennichella scherzando e mi sono svegliato adesso. Io come gli ho detto, sì, lo vedi, come gli ho detto a Natalino, c'ho ancora le corde vocali intrecciate, si devono ancora sciogliere. Forse anch'io, adesso mi prendo, mi mangio una caramellina al menta e così almeno si sciolgono. Una caramella balsamica, di quelle... si sente nella gola e anche nel naso, cos'erano le vigorso quelle? Quelle sono forti? No, è una mentina normalissima, ma comunque già anche quella fa il suo effetto. Ciao Giulio! Ciao Natalino! All'ombra di un verde albero! Sotto l'ombrello per l'ombra. Mi sono fatto il caffè, mi sono fatto, perché Marco me ne ha fatto venire la voglia. Allora sai, ho provato quella Pro X1, quell'antenna là, solo che ne l'ho dovuta togliere subito perché mi hanno detto che disturbavo. E io non la stavo neanche usando in trasmissione. A cani visti, sta cosa longa, subito lo dice in vendi, maledetti. E ne l'ho dovuta togliere. State tranquillo, tienitela che è master, basta, cosa lo fai tanto non serve a niente. Va bene, la Game Master è più che sufficiente, anche se per ascoltare è un po' sorda, per ascoltare altre frequenze intendo, è un po' sorda, però tutto sommato intanto non guadagni niente, anche ascoltando altre frequenze. Eppure sai che ascolto bene anche le altre frequenze con la Game Master, qua arrivano con sparattiche. L'altro giorno c'era propagazione lì, in 40 metri, stavo ascoltando di brutto, ma benissimo arrivavano. Con la Game Master proprio, infatti non è che me ne sono pentito di averla tolta quella là. Arrivavano anche furti con quella antenna là. L'ho dovuta togliere perché mi stavano dicendo che disturbavo. A nemici c'è cosa ronga e si sono suicidati a Besumeri. Vabbè. Vuol dire che ho trovato un collegamento buono, perché sennò di solito, e anch'io li sentivo con la Game Master, però se erano segnali per dire da Santiago 9, mi arrivavano Santiago 2-3, li sentivo lo stesso, ma perde molto, dai, non è come la Mantova Turbo come avevo prima. Quello già suonava bene anche in ricezione nell'HF, però non la Game Master. Vabbè, adesso non risuona più niente perché non ne ho più, che me ne sono disfatto, me l'ho venduto, si era guastato e me l'ho venduto, guasto com'era. E infatti, hai fatto bene, e cosa vuoi ti dica? C'ho anche un progetto di un dipologo alle cariche per poter ascoltare, ma non ne voglio piazzare su perché mi toccherebbe risalire su, no, non fanno giù. Poi non ne vale la pena, guarda, lascia perdere. Piuttosto adesso che hai messo la Game Master, te lo volevo dire, chiedere dall'altra volta. Forse hai fatto, o meglio, chi ha piazzato l'antenna ha fatto un piccolo errore, perché avrebbe dovuto rinforzare dove ci sono i collegamenti fra elementi, lì con un pezzo di tubo di elettricista, una quarantina, in modo che resiste molto, ma molto meglio, al forte vento, al fortissimo vento. E poi un'altra cosa, io nel bocchettone dove si attacca il PL, lì, siccome mi aveva fatto difetto, che avevo delle stazionarie, altre anche a tre, e cosa era successo? Che era un ossidato, il piede ossidato ho attaccato al moquettone. L'avevo pulito bene, poi l'avevo tirata giù perché non volevo controllare l'antenna, com'era all'interno, e non c'era niente, era perfetta, era solo un moquettone che era pieno di ossido e creava un sacco di stazionari. Adesso invece l'ho fatto in un'altra maniera. Ho preso un pezzo di tubo da elettricista da 2,5, da 25 mm, ci ho infilato prima il PL dentro, ci ho infilato e poi quando l'ho avvitato ho tirato sul tubo ed è aderente al piattello su, per cui non può entrare umidità, non può entrare acqua in nessuna maniera nel PL, per il semplice motivo che l'ho tirato proprio lì, completamente in aderenza al piattello, l'ho bloccato con una sottomanto nel cavo, così non scenderà mai, non si abbatterà mai quel pezzo di tubo. Mi hai capito, mi sono spiegato come cosa ho detto? Sì, sì, ho capito il tutto, ma ho visto che ha retto bene al vento, il tubo non si è mosso di un millimetro, il tubo dritto e l'antenna in orizzontale di quanto c'era il vento, figurati. No, la mia è piazzata bene giù. Ok, ormai io ce l'ho da alcuni anni e devo dire che quando soffia vento forte, ma forte, forte veramente, no? Non con venticello da niente, no? Proprio un vento forte che arriva dal mare, si piega, però è tranquilla, no? Non succede niente. Non succede niente. Marco, ti sei sentato? No, ancora no, però macchiato mamma, faccio una cosetta qua rapida. Volevo dirvi, c'era anche tale Roberto dall'Ulimpo che stava provando un'antenna veicolare. Vediamo se c'è ancora e se Giulio lo copia. Roberto, c'è ancora? Non c'è più. Poco fa ho sentito qualche bisbillo, già l'ho sentito poco, ma già lo sentivo, basso, ma già lo sentivo. Ho detto che aveva un'antenna veicolare, ha detto che aveva. Sì, esatto. Qua, vabbè, prendila per buona, 6,5, questo è anche tirchio come Smitter. Poteva essere un 7,5 a orecchiometro. Vuol dire che ha chiuso là, era entrato per una prova d'altronde. Poi Luca è andato a farci la doccia, a meno che non abbia già finito. Luca, vabbè, dai, bianco per me, riprete voi. Anda bene Meda. Oh signore, adesso di quell'antenna me la smetto a testa, che non la posso piazzare perché sennò mi dicono che disturbo. Stavo dicendo, Luca deve andare alla ricerca, Natali, lui si sta profumando adesso. E allora, la garuba che giovano giù, l'abbiamo fatto anche noi ai nostri tempi. E allora, oh, yeah. Capito, comunque, io ripeto, adesso quanto tempo ce l'ho piazzata questa antenna, almeno un anno prima del Covid, ce l'ho, il che significa in tutto all'incirca 4 anni, e di vento ne ha preso molto, anche se è bassa, ma tutto attorno qua, case più alte, non ce ne sono, per cui, tanto è vero, io dal tetto vedo il mare, il Porto Torres. Questo significa che è tutto libero e quando soffia, soffia forte veramente, nonostante che sono in basso. Però si piega ma non succede niente, l'antenna è intatta sempre. E anche quella di Gianfranco, ce l'ha parecchi anni Gianfranco, e non è rinforzata, è piazzata come la mia. L'importante è che sia piazzata bene, che rispetti le misure. Se rispetti le misure non gli fa nulla il vento. A qualcuno se l'è troncata perché evidentemente l'ha piazzata senza prendere le misure come devono essere prese. Io me l'ho segnata col pennarello, tutto prima di piazzarla. E io ho fatto un bel lavoro, capito? Poi è tutta bella vulcanizzata e l'antenna mia è fatta bene, è per quello che regge, è quello quella di Gianfranco, lo stesso ha preso i batturati di Ventu, che dice che gli ha piegato il tubo, ma l'antenna no. Sì, perché così il trucco appunto di quel tipo è proprio quello, non deve controventarla niente, deve lasciarla libera in modo che gli occhi per conto proprio, in modo che il vento lo faccia resistenza su se stessa. Perché se tu la fai, ad esempio quella che io tu ti hai presente, che è l'antenna che aveva Sandro, lui, che quando ce l'aveva posto Torres, gli si era prestata lui, ed è quella, ce l'ho io quell'antenna lì. E però lui cosa aveva fatto? Nella parte alta della punta dell'antenna l'aveva controventata con i fili di nylon, l'aveva controventata. E dunque il vento l'ha spinto al centro ed è lì che l'aveva crepata, capite? Infatti, no, la mia è libera. E poi da me dice che si vede il mare dal tetto, figurati. Adesso dovrei imbattere qualcosina in più. Io credo, senza dubbio non ci sono problemi. Per cui non è che. E io lo stesso già. E poi io sono soddisfatto così, non me ne frega niente poi di quello che possono dire gli altri, ma non serve. A parte il fatto che serve, altro che se serve. Sì, ho visto dei controlli, ho visto tramite video, hanno fatto dei controlli con aggressioni, ma devo dire che fatta a diverse distanze come chilometraggio, e se non arriva c'è anche a oltre 50 km, oltre 55 km, sì, la gradazione era superiore come segnale, ma superiore di una cosa molto ma molto scarsa, come ad esempio mezzo punto S, non di più, per cui va bene, ma se tu consideri che la gradazione costa 250 euro o quanto costa, forse anche di più, è come costruita, nella maniera come è costruita, con radiale anche da 2,50 m, ma vuoi scherzare? E lì c'è un pezzo di resina e va più che bene. Qual è la differenza? Cosa me ne frega a me se io in lontananza 50 km ci arrivo, mezzo punto e meno della Grassiuli? Dimmi che cosa ho perso o cosa ha guadagnato la Grassiuli. Praticamente nulla. Appunto, ce l'avevo l'altro giorno anche, l'ho visto, vabbè, l'ho visto per l'ennesima volta, almeno tre volte l'ho visto quella, perché io seguo molto il tablet, però dunque lì ci sono dei video appositi, per cui, e probabilmente ce l'ho anche, perché poi se rimane memorizzata, se rimane quel video lì, per cui lo posso sempre rivedere volendo. Ma per dire, hanno incominciato a fare la prova a distanza di 5 km, poi andando sempre più lontano, sino ai 55 km. Sì, è vero che la reazione andava più forte, ma sempre a quel livello lì, a livello di mezzo punto, a secondo delle distanze andava da un punto, a un punto S, ma la cosa voi che possa influire, ma chi se ne frega. Poi se arrivi a 55 km, cosa deve arrivare? Dall'altra parte della Terra? Sì, infatti, cosa vuoi? Io mi trovo bene, io sto andando con 2 watt, con quell'apparecchio uguale al tuo, e cosa vuoi? Bene mi senti tu. E vuol dire che se tu mi senti bene, vuol dire che sta andando bene la situazione. Quando io faccio i DX mi rispondono, evidentemente l'antenna sta andando bene. È certo che sì, è certo che sì. Tu pensa, mi sembra che vabbè, l'anno scorso, in propagazione, con 2 watt in FM, ma l'ho sentito nella bassa Italia, ti puoi immaginare, è anche al centro Italia, con 2 watt appena, cioè con la minimissima potenza, meglio di così cosa deve pretendere? E l'antenna era questa, quella che ho adesso, per cui non mi posso lamentare. E poi mi basta chiedere a Giovanni di Pratamola, che addirittura mi ha sentito a Belchidda, mi ha sentito, a Belchidda sono 60 km da Sassari, non è di dietro, no. E eravamo un gruppo, ma mi aveva detto che quello che sentiva sentiva meglio di tutti era me, che se puoi immaginare. E infatti io allo stesso uso due watt per parlare con Sassari, cosa me ne frega qua di aumentare, anche per no, perché temo di disturbare, che non disturbo mi, però è sempre meglio uscire bassi, cosa me ne fode? Appunto, anche per quello, perché non si sa mai, perché tu sai di te, per dire, io so di me, ma non sai degli altri, per dire, no? Per cui, per quale motivo uno vuole, deve rischiare? Assolutamente no, non succede niente, però è così. Per quale motivo deve rischiare? Perché considerato che è sufficiente fare così. Infatti, magari posso alzare un po' se c'è propagazione, che qualcuno gli arriva basso o che devo parlare più lontano, capito? Allora sì, ma se no per Sassari ce n'è per i maiali anche. È certo che è così, cassettina. Io anche ieri, ho avuto ieri, ecco, eravamo in ruota con Gabbino, con Franco di Sorso, sempre con i suoi due sbatti, tranquillamente, abbiamo parlato per due ore, ma due ore di orologio, che problemi c'era, eppure mi sentivano e li sentivo senza nessun problema. E allora che motivo c'è, cioè, di solo per sentirmi dire mi sta arrivando tanto di segnale, magari fino a tutti, quando mi senti in radio basta, sono contento così. E anche io ci ho parlato con Tino, con Franco, con Gavino, con due watt parlavo tranquillamente. E siamo stati fino a tardi una sera parlando, altro che due ore, più di due ore. E mi sentivano bene con due watt, io parlo sempre con due watt, l'ho visto. E allora è così che deve andare la questione, anche perché intanto è inutile andare a sporcare, non devi sporcare per niente, va bene così, è sufficiente e tutti siamo contenti, per cui non ne vedo la ragione. Arrivi Santiago Novo, ho visto adesso, ho dato un'occhiata quando stavamo donando e mi è sembrato Santiago 9, al 9 si è arrivato, per cui bene o male all'incirca sarà là, anche il mio così suppongo, perlomeno, e se non è così e se è più basso va bene lo stesso, l'interessante è che mi senti, no? Che problemi ci sono. Io vedo anche i tuoi picchi di modulazione addirittura, vedo, quando tu parli io vedo i picchi di modulazione tui. Sì che vedi bene, è più che sufficiente, no? Solita potenza, solito microfono, sempre la stessa cosa, no? Senza stare lì, lo stesso modo di parlare, no, niente di particolare, stessa distanza, sempre dal micro, tutto così, anche perché io appoggio il gomito, e come sono appoggiato il gomito, la distanza rimane per forza quella, non può essere oggi una e domani un'altra distanza, no, non può essere, perché io appoggio il gomito, così rimango anche riposato, rimango e la distanza rimane sempre quella, per cui, e poi tutti quando sentite mi sentono che è il problema, e chi non mi sente pazienza, no, miracoli non ne fanno più nemmeno i santi, figurati se li posso fare io. Ehi, a voi se ti sentono, già ti sentono, se io lo stesso con due watt sto andando tranquillo e mi sentono tutti, mi sa, se poi entra qualcuno più lontano magari aumentiamo, non lo so, per farmi sentire più bene, se gli arrivo basso a qualcuno. Però deve essere da fuori, perché per Sassari mi sentono bene tutti, mi sente Franco che è a Sorso, non lo so io. Appunto, per cui va bene così, non c'è problema, anche 3-4 giorni fa lo stesso, ho visto questo segnalone qua a fondo scala, vabbè, fatto questo è vicino a me, ho pensato. Sono entrato, qui abbiamo parlato per un bel po' tutti insieme, armato. E chi era? Era un ex di 7-8 anni fa che si era affacciato in questa frequenza, che poi invece non si era più presentato. Ma suppongo che si farà risentire, anzi senz'altro si farà risentire, almeno quando è libero, perché chiaramente lavora come tutti. E allora magari troverà il momento per farsi risentire. Ed era Walter, non Walter, Walter Radiamatore, cioè anche questo è Radiamatore adesso, ma un altro Walter, capito, che è qui nella mia zona stessa. Anzi, diciamo che nella zona di Walter, Walter con Walter, è lì, proprio a 200 metri di uno all'altro. E ho capito. E vabbè, e cosa vuoi che ti dica? Figuriamoci, che è logico che ti arrivava con un segnalone lì, perché è vicino a te. Ma non ho sentito più a Carlo. Non ho sentito. Nemmeno io, ma deve essere impegnato, o a meno che non è andato fuori a farsi un po' di vacanze, non lo so. Però nemmeno io lo ho sentito, sono da molto che non lo sento. Non penso che l'abbia sentito più nessuno, perché l'ultima volta che l'ho sentito io pensavo almeno a 20 giorni fa, più o meno, all'incirca così, col tempo lì, forse anche di più. Sì, infatti, ho impegnato col lavoro, ho capito, e non può entrare per quello. Sì, già si farà risentire. Ecco. Sì, l'amico mio, lo vedo Giovanni. Ciao Giovanni. Restavo poc'anzi, ho citato anche il tuo nome. Gli ho detto che mi avevi sentito avvertire da Natalino. Ciao Giovanni, prendi. Buonasera Giulio e buonasera Natalino. Che altro c'è? C'è Marco in stand-by, c'è, però in questo momento forse non so se rientra, perché è andato a farsi il caffè, è andato. Avanti ancora Giovanni. Tutto bene, dai, è bel sabato finalmente, non piove, ha smesso di piovere, un pochino di... Sì, in effetti è così. Lo stesso beat abbiamo anche lì, da lì. Guarda, quel beat che senti ce l'ho anch'io uguale, solo che io non lo uso mai. Anzi, nemmeno me lo ricordo, la verità, no. Ma comunque va bene lo stesso. Vai Natali per Giovanni. Ciao Giovanni, ti sento bene oggi. Non so come tu mi stai ascoltando, sto uscendo con 2 watt, però a te ti ho ascoltato bene. E io il bip ce l'ho corto, invece, me l'ho regolato per essere corto, capito? Ma non lo uso mai neanche io, la verità. Ok, lei va bene, non me lo ricordo nemmeno mai. Comunque già è una comodità, anzi, diciamo che si dovrebbe usare, visto considerato che c'è nell'apparecchio, si dovrebbe anche usare, perché ti dice che l'interlocutore aveva finito in quel momento di parlare. Vai Giovanni. Sì, rispondo a Natalino, ti sento benissimo Natalino. Bene, molto bene. Perché ho piazzato l'antenna sul tetto e adesso è logico che mi senti bene, perché sono riuscito finalmente a mettere l'antenna fissa là e sopra il tetto l'ho messa proprio come dovrebbe essere, e qualcosa in più magari imbatto, dai, diciamo così. No, molto meglio così, Natali. Sì, ti sentivo, però non bene, capito? Ma adesso è già un paio di giorni che ti sento benissimo. Sì, perché adesso l'antenna è sul tetto, prima era bassa, logico che non risuonava bene l'antenna, adesso già è sopra un palo da 4 metri, quindi che ne escano 3 metri fuori dal torrino, già risuona l'antenna, adesso dovrebbe andare perfettamente, là, diciamo così. Sei anche un bel segnale, sei quasi a fondo scala, Sono contento, almeno tu sei lontano e puoi vedere la differenza. Sto usando 2 watt come, perché abbiamo l'apparato uguale a a Giulio, là, diciamo così, sto usando 2 watt come usa lui, al minimo. Ok, avanti ancora a te Giovanni. Dunque cosa c'hai? Il 6009 stai usando? Che rispondo io, forse si è sentato. Sì, diciamo che è simile, dai, sì, la stessa cosa, ma marca è diversa. Però tutta la costruzione di costruzione è uguale, perlomeno all'interno. Sì, è così, è 555 mi sembra che ha, anzi no, l'Amitone lui ha. Lui ha l'Amitone, che è un tipo di radiolina fatta in 15 versioni. Però tutto l'interno è tutto uguale, per cui il funzionamento è identico, Giovanni. Capito, cambierà l'estetica e niente. Poco fa ti stavo sentendo che stavi parlando del tipo. Due secondi fa sono riuscito a metterlo e poi l'ho tolto, però mi dava un po' fastidio perché lo sentivo anche mentre cambiavo i canali, capito? Sì, sì, e c'è sempre comunque, c'è sempre, ma no, fastidio non era, anzi è anche bello da sentire, che problemi, a meno che non dà fastidio a te, ma a me non me ne dà fastidio assolutamente, anzi mi dice quando hai terminato di parlare che anche se non ce n'è bisogno, però è un avviso, no? un avvertimento che è finito, che posso riprendere, e quello, il bip serve per quello. Vediamo se riprende Natalino, Natalino. Sono andato ad aprire la 50, no? Che ha suonato, sono andato ad aprirla, ecco perché non ho risposto. Sì, ho la Nittone 5555, già 45, ed è praticamente come quello di Giulio Giovanni, è un bel apparecchio, esce con un minimo di 2 watt e poi si può regolare la potenza fino a 15 da in AM e poi in banda laterale fino a 30. Allora vai, sì, infatti è uguale, sono tutti uguali, siamo lì sulla linea del 3009, praticamente sono tutti, tutto il mondo è sempre quello, no? Non c'è problema, non c'è, va bene, va. No, è d'altronde, di meglio cosa vuoi avere, che te ne frega, quando ci sentiamo va più che bene, non c'è bisogno di spendere un patrimonio per sentirci così. Avanti Natalia. Infatti è bellissimo come apparecchio, anche bello di estetica, da. È un bel apparecchio veramente, il 3009 ce lo avevo io, però mi si è guastato e non siamo riusciti a aggiustarlo, capito? Ce l'avevo io il 3009, era un bellissimo apparecchio, mi andava molto bene, però mi si è rovinato. E mi ho preso questo per poter modulare. E sto uscendo adesso con 2 watt proprio. A proposito, ma la patente poi l'hai presa? O ancora non è dato esatto? Lo sento basso adesso a Giovanni di radio. Va bene. Forse è attaccato qualcosa. Sì, io già lo sento bene sempre, non c'è problema. No, ti rispondo io allora. Vi faccio sentire passare la domanda. Natalì, ti ha chiesto se la patente l'avevi presa, rispondilo, vai. No, negativo, negativo. Mi hanno bocciato, Giovanni. Quando ne era mai? Copiato, Giovanni. Sì, sì, sì, positivo, positivo, l'hanno bocciato. Mi dispiace, ragazzo, anche perché con la passione che c'ha lui, cioè, mi dispiace, dai. Adesso ti ho sentito, torna bene, Giovanni. Lascia così, perché sennò sparisce la radio e sei incomprensibile. E la moglie ha preso un mattarello e l'ha picchiato, lo sta picchiando Giovanni. Aspetta un attimino, appena che si riprende dal colpo in testa che gli ha dato, che si riprende subito. Vai Giovanni. Guardiamo qua, è aspetta, va. Dunque l'ho passato, no? Gli va benissimo, andava benissimo. E anche da me, oltre 9.10, quasi 9.15, adesso un pochino meno, ma era così, va benissimo. Anche un bel bip prolungato, tra l'altro, se vogliamo, molto bene, molto bene. mezzo. Adesso già lo sento bene a Giovanni. Capito, l'ho sentito bene, non c'è problema. Poco fa invece deve essere che ha abbassato qualcosa e lo sentivo basso basso di radio. Sarà difficilissimo, cazzo, chissà quanto è difficile prendere questa patente. Quel mi pegata, mi prolungato lo fai. Ma lui era preparato, perlomeno stando a quello che aveva sempre detto, era preparatissimo, solo che ci vuole anche un po' di fortuna che ti faccia le domande, che ti faccia le domande quelle che dove veramente sei preparato in maniera ferrea, perché sennò poi, sai, è sempre un esame e quando uno è davanti a un microfono per fare un esame magari si può anche, diciamo, un po' confondere, anche perché le domande sono fatte in maniera trabocchetto, per cui poi mi già se lo dice lui, vai Natali. E infatti me ne hanno fatto passare la voglia, guarda. Non ci vado più, basta, finito, rimango qua e buh, chi mi sente, chi non mi sente non mi sente. No, non c'è problema. Colpa mia che deve passare una strada. Infatti ho piazzato solo questa, l'antenna per qua e buh, e non c'ho altro. E appunto, cosa, chi te lo fa fare? Lui, vabbè. Anch'io prima, 20 anni fa anch'io avevo intenzione di fare quell'esame, ma poi tutto sommato mi è sempre mancato il tempo perché lavoravo, rientravo la sera, uscivo al buio, se può dire la mattina, rientravo la sera al buio, figurati se c'era tempo di studiare, quindi, e poi col passare gli anni si passa proprio la voglia, cosa stai lì, insomma, non guadagni niente, vai Giovanni. Sì, ma non capisco perché la fanno così difficile per prenderla, non capisco perché deve essere così difficile. È difficile, studia tutto a memoria tutto il libro, non dovrebbe essere difficile, però ti fanno delle domande tra bocchetto, magari tu li hai studiate in un modo e loro te le chiedono in un altro modo, che hanno sempre lo stesso significato, e uno essendo così magari prende un po' di emozione e ti frega, sbagli e ti bruciano, sempre che le cose le facciano con sincerità, perché tante volte ho sentito dire che ma io ne sapevo tanto, ho risposto tanto, eppure non mi hanno fatto passare, non lo so, questo non se lo so dire perché io non mi sono mai presentato e non mi presenterò mai a fare quell'esame. Avanti Natali. E io lo stesso, secondo me non è tanto per l'acquare l'esame, perché io ho visto che ho preso la patente per il pullman, cioè avevo la di pubblica io Giovanni, me l'ho studiata, poi per questo esame ero preparatissimo, ma ho preso il porto d'armi, insomma esami ne ho superato e alla prima, beh, qua sono sceso 3 volte, più una volta al computer l'ho fatto l'esame, ma l'ho sempre bocciato ed ero preparatissimo, ne sapevo un me. Oh, quello che non capisco è perché fare una cosa così difficile, non vedo l'importanza di questa difficoltà, perché darle tutta questa difficoltà, non capisco perché. C'è difficoltà, c'è difficoltà, purtroppo sono severissimi, fanno domande a trabocchetto, ti fanno impappinare, capito? Specialmente quello lì, quello via internet, sembrava più facile, però col cavolo è più facile, perché ti fanno impappinare. Io ho fatto anche quello scritto, lo stesso, nulla, sono andato tante volte e mi hanno bocciato, adesso mi sono stufato e non ci vado più Giovanni, basta, finito, a parte che ci vogliono un sacco di soldi per fare quell'attività che è uno sport per gente ricca, ci vuole spazio per mettere le antenne, perché sai bene tu che senza antenne non fai nulla, gli apparecchi costano un occhio dalla testa, quindi mi sono deciso a rinunciare, dai. Rinuncio perché non è roba per me, è roba per gente che ha parecchi soldi, io soldi non ne ho, basta, finisci. Infatti hai ragione Natalino, infatti hai ragione, certo, ci vuole antenna, ci vuole posto e tutto quanto, e strumentazione poi, no, non se ne parli, io per due cazzate ho visto che ho speso un pochino di soldi, dai, intorno alle 400-500 euro spesso. Sì, ci vogliono dei soldi di lì. E le apparecchiature costano migliaia di euro e le antenne ugualmente, è uno sport per ricchi quello, mi ma sta andando anche in decadenza, se tu hai visto, io ieri l'ho acceso, c'ho sempre da fare qualcosa, però l'ho acceso e ti ho sentito che non mi ricordo con chi parlavi, che ti stavi lamentando, che insomma c'è poca gente, non entra quasi più nessuno, la tecnologia ha dato le sue volte riguardo a questo. Si lamentano che non ci sono radioamatori, cosa vuoi che ti dica io? Le facciano più facile gli esami e siano onesti soprattutto facendo le cose, perché se fanno le cose come devono essere fatte, vedrai che passa un bel di gente e non le devono fare così difficili, si chiedono cose che magari non hai studiato e si è fregato, vogliono sapere di telefonia, di satelliti, è molto ampio la cosa, vogliono sapere elettronica, elettrotecnica, tutte queste cose devi sapere, se no non passi. Informatica vogliono sapere, uno deve essere ben ferrato per passare quegli esami lì, perché usano anche il computer via radio, quindi vedi bene che ci vogliono parecchi soldi per fare quell'attività lì. Devi sapere di punti radio, tante cose ci sono, è molto ampio il programma, quindi o sei preparato o non passi, non c'è nulla a fare, purtroppo è così. Io ho rinunciato perché non mi va più, mi hanno disgustato, diciamo, già mi va bene qua, infatti ho piazzato questa antenna qui per questa frequenza e basta, e non ho altro, non me ne frega nulla, questo baracchinetto va più che bene e quindi mi accontento, va. Ok Natali, mi devo assentare due minuti, qualcosa in più, poi già rientro se ci siete ancora. Vabbè, buon stand-by allora, dai, Giovanni, avanti Giulio. Ok, a dopo allora Giovanni, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, non c'è problema, ci mancherebbe altro, sei sempre ben accetto, almeno da parte mia e anche da parte degli altri amici, non c'è problema. Sì, ma è così Natali, ma guarda, senza andare, noi abbiamo, tante volte abbiamo detto, la frequenza qua è una frequenza che ormai è in declino perché c'è gente maleducata, questo, quest'altro, mettiti lo che ieri stavo ascoltando, stavo l'SDR al computer, stavo ascoltando, e c'era una greffa di romani che stavano facendo QSO, ma tu dovevi sentire le parolacce che hanno detto questi mascalzoni romani del cavolo, proprio una vergogna, veramente, e poi mi vengono a dire che i CB tante volte sono maleducati, ma quelli non erano CB, quelli erano radioamatori, parlando su SDR o Natali, al computer io ogni tanto in tanto accendo e li ascolto, no, sulle varie frequenze al computer, ma tu dovevi sentire le parolacce che stavano dicendo questi deficienti romani. Infatti, loro si credono di essere un gradino più su, invece fanno la figura dei randaggi proprio, non si deve parlare in quelle frequenze, in quel modo così scurrile giù, devono avere un certo comportamento, purtroppo si stanno comportando peggio dei CB. È vero.